Sì, il tentativo che vo vogliamo fare oggi, ma che in realtà è quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, è secondo noi l'unica cosa possibile da fare in questo momento nel mondo in cui viviamo è raccontare queste storie, metterle sul tavolo. Dopodiché non spetta solo a noi quello che succede dopo, però a nostro avviso è questo, è il tentativo che abbiamo fatto in questi anni con la terra trema, con le centinaia di agricoltori che poi arrivano a Milano, in una metropoli come Milano, in un posto come questo. E quindi una carica simbolica forte delle storie che vengono messe sul tavolo, e dopodiché di queste storie non sta solo a noi decidere cosa farne, insomma. E quindi continuiamo a raccontare. Giuseppe è qua, e quindi non lo so se ha voglia di aggiungere dei pezzi.